questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e bentornati alla RadioTube della domenica. Questa settimana parliamo molto di musica nell'appuntamento che vi fa ascoltare e riascoltare il meglio, il peggio, il perdibile e l'imperdibile di quello che ha scatenato il web, la social TV. Insomma, questa settimana sono da sola. Questa settimana sono da sola perché ho consentito a Daniele Bellasio di andare in vacanza qualche giorno. Qualche ora. Però dai, ci sei al telefono anche oggi. Buonasera Daniele. Ci sono anche con l'account su Twitter @DiBellasio e anche con il tuo @MartaCagnola, però quello lo gestisci tu, è proprio sì, tuo. No, tuo. Quello sì, quello faccio io, dai. Non e, ti... e poi si può usare ovviamente l'hashtag RadioTube e ricordo che da domani c'è anche il podcast sul sito www.radio24.it. Così da domani ti puoi anche riscaricare tu e risentire che non ti sei sentito tanto perché eri al telefono, insomma al telefono è un po' più difficile fare la trasmissione. Sì, il telefono è diverso, però vista la mia familiarità con i microfoni, come direbbe Valeria in regia, meglio il telefono. Daniele, ti faccio un quiz, adesso ti faccio sentire un pezzettino di una canzone e tu mi dici se sai chi sono, no. Ma non lo so quanto sei moderno, Senti qui. Ti dicono qualcosa? Scusa, hai detto che parlavamo... No, prima parlavamo... Allora... Io pensavo di parlare, no, di lui, no? No, e adesso parliamo anche di lui. Solo. Però, allora, la premessa è... Estate, tempo di concerti. Sì. Sai qual è il concerto di questo fine settimana, ieri e oggi, proprio il grande momento? Sono gli One Direction a Milano. Sì, poi è noi che parliamo anche da qui, da dove sono io, certo, perché ovviamente sai, noi parliamo di social network e sono loro i social network, sono i ragazzi, e quindi i ragazzi stanno invadendo con i loro hashtag i social network per parlare degli One Direction. Ma quelli che stiamo ascoltando non sono gli One Direction, no, perché noi rischiamo di rimanere indietro, perché adesso andiamo oltre. Questi sono i 5 Seconds of Summer, 5 secondi d'estate. Sono 4 ragazzi australiani, si chiamano Michael, Luke, Callum e Ashton. Ti posso rivelare, Daniele, ma tieniti, perché io ho avuto uno shock quando l'ho saputo, che loro sono nati, ma non come gruppo, loro, questi ragazzi sono nati tra il 94 e il 96. Io votavo già. Ecco, e anch'io, figurati. E quindi sono piccolissimi, sono dei ragazzini molto carini, molto simpatici. Io li ho incontrati a Milano, mi sono piaciuti tanto, sono tanto simpatici, ma soprattutto io mi sono divertita andare a incontrare le ragazzine che erano tutte piene di scritte perché hanno fatto il signing, cioè hanno firmato le copie del loro primo disco che è uscito proprio venerdì. Piazza Duomo, c'erano 6.000 ragazzine ad aspettarli, non so quanti siano riusciti a farsi firmare effettivamente questo disco, però erano in 6.000 ad aspettarli in Piazza Duomo. Ecco qua, io ne ho interrogate alcune, eccole. Io li ho conosciuti personalmente grazie agli One Direction e quindi ci piacciono perché sono un genere diverso dalle solite canzoni, quindi mi piace ascoltarli. È una band, quindi la musica la fanno dal vivo, quindi è totalmente diversa una musica di una band piuttosto che registrata, diciamo, quindi sentire musica dal vivo è molto più bello, sì. Da quanto tempo aspettate? Dalle 9 noi. Ci piace la loro musica. A me piace il messaggio che c'è nelle canzoni. Cioè, raccontami. I testi sono diversi, diciamo, non parlano delle solite cose, però sono anche belli. Sono belli i testi e sono belli loro? Sì, è ovvio. Beh, scusa Daniele, mi dicevano i testi delle canzoni, io non potevo, non chiedo, sono belli testi, ma sono belli anche loro perché sono 4 bei ragazzi, cioè ho avuto 15 anni anch'io, quindi... Cioè, loro sono i supporter di... Loro sono i supporter, ma stanno diventando ancora più famosi degli One Direction. Ah, cioè, ma questo è il capitolo che Marta porta bene, no? Beh, insomma, loro non hanno bisogno... band che poi diventano famosissimi. Loro non hanno bisogno di me perché hanno fatto tipo 60 milioni di visualizzazioni dei loro video su YouTube. Sono già un filo noti, sì, primi in 60 paesi del mondo, però è loro... loro primo album adesso, perché loro sono esplosi prima su YouTube. Bella questa cosa delle band, che piacciono molto ai giovani. Piacciono molto ai giovani e non solo, perché io questa settimana sono stata anche a un altro concerto. Beh, no, la settimana scorsa, esattamente una settimana fa, domenica scorsa, sono stata a un altro concerto. Ma per lavoro o per diletto? Sono tutte e due, cioè per diletto ma anche per lavoro, perché ho anche lavorato, infatti, insomma, ho fatto tutte le dirette nei giornali radio di Radio 24, ho fatto un sacco di interviste, però mi sono anche divertita. Un concerto importantissimo, se era nei GR. Il concerto, io lo so che ci sono tanti concerti quest'estate, ma come... È andata quella di Vasco, diciamolo bene. Ma no, c'è stata la data del Circo Massimo dei Rolling Stones e non, guarda, già basterebbe così, anzi già basterebbe Circo Massimo. La trasmissione, arrivederci. Basta, tutte, ciao, andiamo. Perché anche lì Twitter impazzito, Facebook impazzito, bellissimo, perché tutti che postavano foto e trovavi gli amici a seconda, li individuavi a seconda della posizione da cui facevano le foto, capivi dove erano, in mezzo ai 70.000 del Circo Massimo. Perché allora, tu eri proprio lì in mezzo ai 70.000? Più o meno, dai, stavo lavorando, quindi ero un po' di lato perché dovevo riuscire anche a lavorare. E Mick come l'hai trovato, Mick Jagger? Mick l'ho trovato benissimo. Mick ha una... posso dirlo? Non posso dire una cosa un po'... che non lo so, sei tu la capa. Cioè, ma no, ma è che lui c'ha una carica erotica pazzesca, ma io non me l'aspetto, cioè nel ancora? Senso, è quello, lo so che non è carino dire che insomma è un po' anziano, ma ragazzi, ma è bisnonno, eppure... Sì, un po' anziano, secondo me, se la prende parecchio. Beh, tanto anch'io sarei un po' anziana per lui, la sua nuova fidanzata ha 27 anni, scusa, però allora facciamo così, noi ci ritroviamo tra poco, perché io ho anche intervistato le fan e i fan dei Rolling Stones, quindi prima abbiamo sentito quelle dei Five Seconds of Summer, adesso sentiamo quelle dei Rolling Stones, lo facciamo tra poco anche con un ospite che era con me a vedere i Rolling Stones, quindi chiediamo anche a lui. Sì, proprio lì in mezzo alla folla. Radio Tube. Daniele, allora abbiamo cominciato a parlare dei Rolling Stones, è stata un'esperienza straordinaria. Io te lo dicevo prima, ho incontrato con piacere le fan dei Five Seconds of Summer a Milano, su band che sta facendo l'apertura del tour degli One Direction, ragazzine impazzite, anzi poi insomma ho postato un po' di foto, continuo a postare foto di queste ragazze deliziose, impazzite per i loro idoli. Certo che però insomma loro sono nati tra il 94 e il 96, sono proprio dei bambini. La scorsa domenica, una settimana fa come adesso, io stavo quasi finita Radio Tube, sono andata al Circo Massimo e sono andata a sentire questo concerto straordinario dei Rolling Stones. Ho anche incontrato le persone che sono andate al concerto. Sai una cosa molto bella, Daniele? C'erano le famiglie. Ma le famiglie in cui i nostri coetanei erano i figli. Senti qui un po' l'entusiasmo dopo il concerto dei Rolling Stones. Cioè è emozionante, perché comunque è problematico sistemarsi, però poi l'emozione del dal vivo non ha eguali, sicuramente. Valeva tutta lo stress, no, me lo sono comprata da sola. Il marito prende il merito. Me l'ha comprato papà, ma sono molto contenta. Quindi concerto con i genitori? Certo, sempre, queste pietre miliari sempre con i genitori, è giusto così, hanno fatto la storia con loro e la faranno con me, sempre. Scatenato dagli anni 60, quest'anno 60 nei 60. Pensavamo che l'età l'aveva un po', no? Pomosciati, invece sono stati all'altezza, anche meglio di quelli che hanno fatto qualche anno fa qui a Roma o a Milano. Non andava grande. E il primo per te com'è stato? Devo ancora realizzare, inizio a sentire adesso il trauma di non vederli più. Hai festeggiato il compleanno con Rolling Stone? Sì, è stato un bel compleanno, devo dire, bellissimo, il più bello della mia vita, il 31esimo, il più bello. Vabbè, ragazzo che ha festeggiato i 31 anni dicendo che il compleanno più bello della sua vita perché è andato a sentire Rolling Stones è molto bello. Volevo tornare però un po' ai social, perché l'account ufficiale dei Rolling Stones ha postato un primo video, come non cogliere l'occasione di un concerto in un luogo così magico per girare le immagini del DVD. Peraltro anche gli One Direction stanno girando il DVD in queste date, però insomma la data del Circo Massimo era un po' particolare per i Rolling Stones. Hanno fatto questo video postato dal canale ufficiale dei Rolling Stones sulla musica di Streets of Love. You're awful right, you're awful smart, I must admit you broke my heart. Hanno fatto questo video, Daniele, non so se tu l'hai visto, ma è straordinariamente poetico e sembra un po' la grande bellezza vista dagli occhi dei Rolling Stones, cioè le immagini del video, delle immagini di Roma, che sono davvero quelle così della... E capisci quanto poi la grande bellezza abbia colpito l'immaginario del pubblico straniero, perché c'è la magia di Roma, di questo tramonto straordinario, di questa serata unica. Tantissime visualizzazioni su YouTube, Rolling Stones super super social, anche i concerti vengono vissuti in maniera social. Daniele, tra poco ti faccio parlare anche di un altro concerto, perché non è che mica vado solo ai concerti, impresso che anche no, tu no, sei infatti, pronto cioè... Anche una vita sociale, al di là e musicale, e musicale, e musicale. Tra poco. E tra l'altro il primo concerto, visto che di Vasco volevi parlare, ci sono andato con mio papà. Beh, quando che avevo meraviglia. 12 o 13 anni. Ma che meraviglia, sì, no, questa parlavi cosa di famiglia. Questa cosa è molto bella. Allora, come ti dicevo, Daniele, abbiamo anche un ospite che ci ha raggiunto proprio in questo momento nel nostro RadioTube. Abbiamo il critico musicale del giornale. Era con me al concerto. Buongiorno Paolo Giordano. Buongiorno a tutti. Confermo, eravamo insieme. Anzi, però io vorrei dire il Paolo Giordano, perché il tuo account di Twitter è il Paolo Giordano, perché insomma, cioè, sono un po' di omonimi, ma meno. Ma no, meno no, quando sono entrato nel 2010 c'era già un altro Paolo Giordano. Ah, che magari non era neanche quell'altro che non scrive, era quell'altro, no? E poi dopo l'hanno anche craccato, me l'hanno insomma in qualche modo clonato, e quindi insomma ho messo il Paolo Giordano e basta. Beh, infatti, messa benissimo il Paolo Giordano. Lo diceva poco fa Daniele Bellasio, che oggi è in collegamento, tra l'altro in Piemonte, quindi Paolo... Daniele Bellasio, dovresti dire, grande Daniele Bellasio. In Piemonte, quindi sì, zone tue, siete sì. Tutti piemontesi, mamma mia, veramente un club di piemontesi. Scusami, fatti delle domande e dati delle risposte. Hai ragione. No, adesso poi voglio dire, io vado a Noli, lui a Spotorno, c'è un chilometro di distanza, tra l'altro in Liguria, non in Piemonte, più o meno siamo lì. Paolo, tu che hai una quantità di follower su Twitter impressionante, perché sono veramente tantissimi. Io immagino che però ti seguano moltissime fan dei giovani cantanti, dei cantanti, sì. Dei talent. Quando invece sì. Quella sera lì hai seguito i Rolling Stones, che feedback hai avuto dai tuoi follower? Ma il feedback dei followers è stato molto molto buono, e credo che una delle curiosità e una delle caratteristiche principali dei social e dei giovani nei social è sia la curiosità, e la caduta dei generi musicali in qualche modo ha consentito a tutti di essere più trasversali. Una volta il rockettaro seguiva solo rock, il punk solo il punk, il jazzista solo il jazz, adesso uno segue un po' di tutto, e quindi anche un ragazzino che magari è fan di Emma Marrone ovviamente, o di Marco Mengoni, è più interessato, perché ha meno barriere pregiudiziali di quanto ce ne fossero una volta. Quindi io mi sono accorto che tantissimi ragazzi di insomma 16 anni, 18 anni, dalle foto, dai nomi più o meno si capiva quell'età, la sera dei Rolling Stones mi hanno fatto domande, mi hanno chiesto, insomma, in qualche modo hanno dimostrato attenzione. Ma io ho una curiosità, fino a un po' di anni fa si diceva che i concerti fossero un mezzo un po' in declino, poi è arrivata la rivoluzione digitale, che è tutto virtuale di solito, e paradossalmente ha riportato invece in auge un genere che è molto reale, cioè devi andare in un posto e sentire delle persone. C'è chi dice che è dovuto al fatto che appunto economicamente ormai anche le band non fanno più tanti soldi con la vendita dei dischi e quindi devono fare i concerti, però è un aspetto positivo dell'innovazione questo. Ma senz'altro è un aspetto positivo, e hai ragione tu, c'è un fenomeno che si affianca alla riflessione che fai tu, e cioè la cosiddetta eventizzazione della musica. La musica ha bisogno di grandi eventi, e i Rolling Stones sono un grande evento, i rapper ad esempio dal vivo non sono un grande evento e ci vanno soprattutto in Europa ci va molta meno gente a vedere concerti di rap, infatti ce ne sono meno, che ne so, Eminem in Italia credo che non abbia mai suonato, non abbia mai fatto un concerto, Eminem è stato il rapper più importante, insomma, degli ultimi 15 anni, e o Kanye West o altri fanno eventi molto meno massicci e grossi di quanto succede. E poi ovviamente sempre c'è dietro un motore economico, come hai detto tu, non si guadagna più con i dischi, non si guadagna più neanche con le diciamo con i download, sia con iTunes che con lo streaming di Spotify, le quantità di soldi che vengono rivelate, insomma, io non ho ovviamente accesso ai mezzi, non posso verificare le fonti, ma le quantità sono molto limitate, quindi alla fine i concerti diventano la grande, il core business della musica, dei musicisti, e questo credo che sia anche da tenere sotto controllo, ecco. Beh, visto che ha parlato dell'eventizzazione, Daniele, coinvolgeremo Paolo Giordano nel nostro movimento di opinione per far tornare il Festival Bar, che è ormai il nostro cavallo di battaglia. Ragazzi, però io vi devo un po' sfruculiare su questo video che mi è stato mandato qualche giorno fa. Un clippino che ha fatto Vasco Rossi, perché allora è l'altro grande protagonista dei live di questi giorni. Quando si è trovato davanti al palco a Roma, ha fatto questo clippino, orecchio che, insomma, il contenuto è un po' fortino. Ascoltiamo cosa ha detto Vasco. Comunque qualcosa che fagocita, mi sembra proprio una, o no, sbaglio, mi sembra che ti attrae, voglia di prendere, voglia di essere presa, di essere penetrata, c'è una voglia di penetrazione. Beh, ragazzi, Vasco è Vasco, insomma, non potevate immaginarvi che paragonasse il palco a un'orchidea, cioè l'ha paragonata a un'altra cosa. Paolo, Vasco. Ho visto il concerto di Vasco, ecco. Ed ero lì, non so in che momento è stato preso, ma comunque ero lì, ho riconosciuto anche la voce della persona che parlava con lui. Effettivamente, adesso non so che cosa mi voglia chiedere, ma il concerto di Vasco è un concerto che ti spetta. No, non volevo chiedere niente di specifico sul paragone. Però, insomma, Vasco è un altro, insomma, tornando su questo argomento, è la riprova di quello che hai detto tu, Paolo. Sì, guarda, non per nulla Vasco ha cambiato proprio la band, cioè i suoni, non sono metal, non sono più aggressivo, perché nei concerti funziona in qualche modo la tribalità della musica, insomma, la batteria forte, il richiamo, il fatto che il pubblico pulsi, salti insieme. Io aspetterò, quando ci sarà Vasco a Milano, i tweet e le foto su Instagram di Daniele Bellasio, che a questo punto mi deve, insomma, dopo che io ho seguito tutti i Rolling Stone, Daniele, toccherà a te con Vasco Rossi. Ma io sono lì in mezzo, il 9, insomma. Poi mi piace questa cosa, che se non ho capito male, lui tutto nuovo invece. Preparatevi, perché vi spettina, come dicono i rapper, perché è veramente impressionante. Lui, nel mio caso, è quasi un miracolo, però. No, anche nel suo, perché si è rasato i capelli a zero, sembra un metallaro proprio di nu metal in qualche modo, i capelli completamente a zero, Vasco. Beh, straordinario. Io voglio che, allora, intanto voglio che Daniele Bellasio torni in studio, ma vorrei in studio qualche volta anche Paolo Giordano, così ci facciamo una chiacchierata. Voi state un po' tra piemontesi e tutto ciò è bellissimo, e riparleremo di musica, però adesso il nostro tempo per il nostro RadioTube della domenica si è concluso. Io vado alle Baroliadi, Tu vai alle Baroliadi a spingere le botti di vino, non bere, perché poi devi metterti in viaggio, perché ti aspettiamo a Milano. Vado. Io ringrazio Paolo Giordano, anzi il Paolo Giordano, per essere stato con noi. Paolo, ti aspettiamo in studio per qualche puntata di RadioTube, vienici Marta, a trovare. Marta, vengo, perché solo la tua voce mi mette già di buon umore. Ti adoro. E immagino che sia così anche per chi ti ascolta. Paolo, sei un tesoro, una persona a cui voglio molto bene. Agli ascoltatori do l'appuntamento invece per sabato prossimo alle 18 con la nostra puntata del sabato abituale di RadioTube. Ci ritroviamo il prossimo fine settimana.